Questo era Ah, non credea mirarti di Vincenzo Bellini e viene da un disco che la nostra simpatica Francesca Grispello ci ha mandato di Simpress 44 e il disco è Hacked Areas oppure Hacked Arias, non so bene, no, però c'è la S finale per cui si pronuncia all'inglese ed è il nuovo disco del duo Blanco Sinacori. Il duo è nato, è un duo chitarristico nato nel 2009, dice il comunicato stampa, ha bruciato le tappe affermandosi subito a livello internazionale con un'attività concertistica che dall'Italia ha incontrato il pubblico di 4 continenti grazie a una proposta musicale che fa tesoro della grande cultura musicale italiana, col preciso intento di rivitalizzare senza populismi né banalizzazioni l'immagine irrigidita della chitarra classica nella musica d'oggi. E dunque, quando andrete su www.coxospaziale.blogspot.com troverete appunto il link per poter comprare o scaricare legalmente il disco o anche nel loro sito che è www.duoblancosinacori.com. Vaga scaletta. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. La messa è finita. Sì, sì, stiamo andando via. Tutta mia. Tutta mia la città, a me, a me, a me, a me. Mamma mia, ehi, mamma, tutta mia, tutta mia, tutta mia la città, a me, già finito? Arte contemporanea. Facciamo finta che nessuno dei nostri ascoltatori conosca Cesare Pietro Iusti. Cosa gli racconti di questa tua prima personale museale? È la tua prima personale in un museo? Sì. È un'occasione importante. Io mi sento privilegiato di averla davanti a casa. Cesare, raccontaci tutto. Tutto è difficile. È troppo perché poi abbiamo poco tempo. È una mostra costruita su un concetto, una strategia abbastanza semplice che si può, diciamo, riassumere così. Ho scelto per ogni anno della mia vita, dalla nascita, un oggetto, una cosa. E può trattarsi di una cosa materiale, un documento, una fotografia, un tema in classe, una pagella, o un disco a 45 giri. E ovviamente da una certa età in poi, prevalentemente poi si tratterà anche di opere d'arte o comunque di cose che sono già state all'interno del sistema dell'arte, all'interno di qualche mostra. In altri casi si può trattare di ricordi o di storie, narrazioni. Che non hanno una testimonianza materiale, per cui sono presentati in mostra semplicemente come un breve racconto. È una specie di autobiografia per oggetti, un'autobiografia attraverso cose che connette arte e non arte, diciamo così, così nello stesso modo in cui connette materiale e immateriale, questa mostra connette in fondo arte e non arte, e elementi che stanno nella mia vita infantile, che poi si ritrovano in qualche modo anche nelle esperienze artistiche. Per esempio la storia di quando avevo 9 anni e tentai di fare un buco sotto al letto che raggiungesse la casa della nonna che abitava accanto, che ovviamente è un tentativo fallito, si ritrova però in varie occasioni, perché in varie mostre ho cercato di immaginare che la mostra consistesse nello sguardo su quello che è al di là dei muri della galleria, al di là dei muri del museo. E in una occasione, una performance fatta all'interno di un centro sociale, poi in effetti questo sogno di questo bambino di 8-9 anni che ha cercato di raggiungere la casa della nonna, in effetti si è avverato, perché ho fatto una performance in cui ho buttato giù un muro, ho bucato un muro e sono finito, un po' come i soliti ignoti, nel bagno della casa del portiere dell'edificio adiacente a questo centro sociale dove si svolgeva questa festa con una serie di performance. E quindi questo connette, c'è un video in mostra ed è del 2006, quindi connette una storia che comincia nel 63-64 attraverso diciamo progetti artistici della fine degli anni 80, dei primi anni 90, e che poi finisce con questa performance del 2006, quindi un fil rouge, diciamo un tema che connette la vita precedente, per così dire, a quella successiva alla scelta o alla occasione o alla possibilità di fare l'artista. Io quando cerco di spiegare a qualcuno che non sa cosa sia l'arte concettuale ti uso come esempio, dicendo una frase che magari tu poi non hai mai detto, ovvero che l'arte concettuale è quello che un essere umano non riesce a descrivere come in nessun altro modo, qualcosa del genere. Perché effettivamente tu le mani le usi molto poco, cioè ovvero se le usi comunque non le usi in maniera per fare arte tradizionale. Beh, ho sempre avuto il problema dell'incapacità, siccome appunto fra l'altro già da piccolo, e anche questo c'è nella mostra ovviamente, come storia ero considerato un bambino che non sapeva disegnare, no? E mi sono portato appresso questo stigma di non essere capace di disegnare anche da grande, anche quando ho cominciato poi a fare mostre. E quindi in un certo senso ho dovuto fare di necessità virtù, quindi di entrare in una dimensione in cui si potesse fare arte, e questo chiaramente lo devo anche all'insegnamento e all'incoraggiamento della persona, dell'artista che mi ha fatto da maestro, che è Sergio Lombardo, che si potesse fare arte non necessariamente possedendo una qualche tecnica che in genere definisce la professionalità artistica, pittorica, tecnica pittorica, fotografica, video o altro. E, però questo ostacolo, questo handicap, poi in realtà per me nel tempo è diventato una specie di risorsa, di argomento di lavoro. Quindi non è che io rifiuto l'uso delle mani, problematizzo la tecnica. Quindi per me ogni tecnica, incluso anche il pensiero, insomma il concetto o la relazione, perché insomma io forse più ancora che artista concettuale sono considerato, da chi ama le definizioni, artista relazionale, cioè un artista che lavora sul rapporto appunto di relazione con l'altro, di superamento dell'autorialità individuale, eccetera. E ho cercato sempre di tematizzare questa cosa. Devo dirti che negli ultimi anni, poi, dal 2005, io ho cominciato in realtà a produrre disegni in grande numero, che ho distribuito gratuitamente in mostre, conferenze, eccetera, e a forza di provare e riprovare ho trovato delle tecniche che non hanno nulla a che fare ovviamente col disegno tradizionale, per esempio nell'uso della candela o del fiammifero per creare le forme su carta. Credo di aver appreso in realtà dei rudimenti, se non proprio di tecnica, di metodo di lavoro, che consentono di produrre anche delle immagini che potrebbero addirittura risultare esteticamente gradevoli. Però ovviamente questi disegni che vengono distribuiti gratuitamente hanno sempre dei condizionamenti, che se vuoi sono concettuali, degli obblighi, degli impegni che chi li prende gratuitamente, ripeto, si impegna a seguire o almeno è invitato a seguire, per esempio i disegni col fuoco, che saranno anche in mostra, potranno essere presi liberamente, però la didascalia dice che nello stato attuale sono incompleti e che per poterli completare il possessore, cioè appunto quello che viene al mambo se ne porta via uno, per poterlo completare, quindi per poter dire che quella cosa che ha è un'opera d'arte a tutti gli effetti, deve finire di bruciare l'intero foglio. Fantastico, per cui invitiamo tutti giovedì, giusto? Venerdì. L'inaugurazione giovedì sera, la mostra è aperta al pubblico dal venerdì secondo gli orari. Questa è una replica. Esatto, fantastico, ci vediamo tutti al Mambo all'inaugurazione di giovedì. Benissimo. Da Cesare Pietro Iusti, grazie mille. Bene, grazie a te. Ieri ho incontrato la mia formica, mi ha detto che sono pazzo. Io con occhiaie profonde e un principio intossicazione. Io non ricordo che occhi avevi, io non ricordo che occhi avevi l'ultima volta che ti ho insultato, l'ultima volta che ti ho lasciato, ma io sono stato, ma io sono stato, ma io sono stato, io sono stato dove tu mai. Dolce amore del Bahia, dolce amore del Bahia, io con le mani di giunco e la mia verginità. Io non ricordo che occhi avevi, io non ricordo che occhi avevi l'ultima volta che ti ho insultato, l'ultima volta che ti ho bloccato, ma io sono stato, ma io sono stato, ma io sono stato, ma io sono stato dove tu mai. Ieri ho ammazzato la mia formica, diceva che ero pazzo. Io, pazzo forse per gioco, ma per niente e per nessuno. Io non ricordo che occhi avevi, io non ricordo che occhi avevi l'ultima volta che ti ho insultato, l'ultima volta che ti ho incastrato, ma io sono stato, ma io sono stato, ma io sono stato, ma io sono stato dove tu mai. Sono Serena Brami e ascolto Coxo Spaziale. I due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Thank you.

Sono Paolo Assei e sto ascoltando Coxo Spaziale. Coxo Sacrale. E dopo queste piccole fette di replica di Coxo 2019, vi salutiamo e vi diamo naturalmente appuntamento a Coxo Spaziale 2020, come al solito lunedì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Buon anno a tutti. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Coxo spaziale. Già finito?